Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 20 marzo 2015. Accesso all'acqua potabile. Siamo al 92% della popolazione mondiale. Continua la marcia del mondo verso l'obiettivo di dare a ogni uomo, donna e bambino il pieno accesso all'acqua. Secondo il nuovo rapporto di UNICEF e Organizzazione Mondiale della Sanità, l'attesa quota del 92% di popolazione mondiale che ha accesso a fonti migliorate d'acqua potabile, come forniture tramite reti idriche e pozzi sotto controllo di qualità, è stata oramai raggiunta. 3 anni fa l'obiettivo del millennio di dimezzare la percentuale di persone senza accesso all'acqua potabile era già stato raggiunto in anticipo. Restano aperti molti problemi, ma anche gli sprechi si vanno riducendo, come emerge dal 7° Forum Mondiale dell'Acqua in Corea del Sud. Fin qui la notizia del 20 marzo 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Il 17 marzo scorso a Marsiglia si è chiuso il 6° Forum Mondiale dell'Acqua, ma anche il Forum Alternativo, che ha lanciato l'allarme sui rischi di finanziarizzazione delle risorse idriche, ribadendo che l'acqua è un diritto di tutti. Marco Iob è dell'organizzazione Contratto Mondiale dell'Acqua. Il forum ufficiale ha messo l'accento su questa centralità dell'acqua, non solo appunto nel garantire l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari a tutti, ma la centralità anche nella produzione di cibo e nella produzione energetica. Ecco, questo secondo noi è un approccio che da tempo ritenevamo importante prendere in considerazione proprio per le scelte da fare nel futuro. Il dato che ci vede invece critici sull'approccio del forum ufficiale è relativo alla valutazione sulla domanda globale dell'acqua. La domanda globale dell'acqua è crescente, costantemente crescente da molti anni e lo sarà anche nel futuro. A nostro avviso è su questo che bisogna intervenire, quindi sul limitare la domanda e soprattutto sul limitare alcuni usi dell'acqua che sono a nostro avviso insostenibili. Per esempio l'uso dell'acqua cosiddetto per le energie rinnovabili, utilizzare appunto l'acqua in grandi riserve e in grandi dighe non è oggi un uso sostenibile per gli effetti che ha proprio sui grandi fiumi e sulle popolazioni che vi risiedono. Oppure ad esempio l'uso dell'acqua per l'irrigazione delle centinaia di migliaia di ettari che vengono destinate agli agrocombustibili, che causano appunto degli squilibri agroambientali molto grandi sia in Africa, in Asia e in America Latina. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.